La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Edo 24, qui in diretta dai studi di Milano, Oscar Giannino per la versione di Oscar. Vi ringrazio naturalmente per l'ascolto in diretta o vi ricordo in podcast al portale della radio tutte le trasmissioni. Andatevi, potete sentirla anche fuori dagli orari della diretta se lavorate o non potete. Grazie. Vado subito al punto per chiedervi, se volete e potete, di dirci la vostra chiamando all'800 24 0024 per gli sms, lo sapete, 349 238 6666. L'argomento della giornata è una dichiarazione resa dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi al settimanale Vita, che su questo tema, cioè quello dei giochi elettronici di Stato, delle slot machine, le tabaccherie, negli esercizi pubblici, delle videolotterie e così via, ha una campagna da molti anni sostenendo che lo Stato deve fare tutto il possibile per evitare le forme di ludopatia. Che cosa ha detto il Presidente del Consiglio Renzi? Gli era stato chiesto dai colleghi del settimanale Vita se fosse vero che il governo pensava ad aumenti delle accise della benzina per finanziare le spese di ricostruzione post sisma, e vi leggo testualmente che cosa ha detto Renzi: nessun aumento delle accise sulla benzina, nessun incremento all'azzardo in questo paese, perché un'altra delle ipotesi era quella di accrescere le possibilità di giochi di Stato per destinarne gli introiti aggiuntivi al finanziamento degli interventi di ricostruzione. Il Presidente del Consiglio, come sapete, smentisce, come avete sentito dalla frase, e continua la sua dichiarazione dicendo: anzi, sulle slot stiamo mettendo a punto una misura per toglierle dagli esercizi commerciali. Avete trovato questa notizia oggi riportata su tutti i giornali. La domanda è questa: voi sareste favorevoli a questa misura, cioè levare le slot? Attenzione, non stiamo parlando di tutti i giochi, e adesso farò un brevissimo riassunto delle diverse forme di gioco elettronico di Stato legale nel nostro paese. Il Presidente del Consiglio ha parlato delle slot. Ecco, delle slot. Sareste favorevoli allo Stato che le leva imperativamente? Perché questo sembra di capire dalle parole del Presidente del Consiglio. Ve lo chiedo perché questa è una vicenda sulla quale personalmente, adesso naturalmente vi presenterò il nostro ospite per parlarne in maniera più documentata e tecnica, ma è una vicenda in cui da anni io ho come un'impressione, non so se la condividete, ho l'impressione di uno Stato che fa più parti in commedia. Può essere comprensibile, può essere ragionevole, però fa più parte in commedia. Da una parte ha sviluppato negli anni una estensione crescente del cosiddetto gioco legale, il fine dichiarato era quello di impedire il gioco illegale, quindi gestito da reti criminali e così via, e ne ha esteso le modalità, le forme, i tipi di giochi, i tipi di terminale elettronico e così via. Ha graduato in maniera molto, tra virgolette, astuta il prelievo fiscale, che è diverso come aliquota per ogni tipo di gioco e per ogni tipo di terminale, perché ha graduato nel tempo. I giochi storici sono quelli con la percentuale di prelievo con l'aliquota più elevata, quelli nuovi elettronici in cui si trattava di contrastare l'illegalità, cioè il fatto che non fossero gestiti o da concessionari di Stati o presso pubblici esercizi con autorizzazione, li ha tassati ad aliquote molto più basse all'inizio per invitare, come dire, venite sui terminali legali di Stato, per poi graduare nel tempo e aumentare la sua pressione fiscale e i suoi introiti. Adesso vi dico gli introiti dei primi 7 mesi di quest'anno per avere un'idea di quanto arrivi allo Stato da queste forme. Da una parte, quindi, lo Stato, per così dire, in nome della lotta all'illegalità, ha esteso in maniera fortissima il gioco legale nel nostro paese. Naturalmente c'è un'industria dietro tutto questo. Ci sono dei concessionari per quello che riguarda le videolotterie e le sale autorizzate nel nostro paese, adesso vi do qualche numero, ed è tutto legale quello che avviene nei bar e nelle tabaccherie con le slot di cui sta parlando, di questo ha parlato ieri il Presidente del Consiglio. Dall'altra parte poi la politica, alcuni esponenti politici ma anche esponenti delle istituzioni, qui per esempio in Regione Lombardia c'è stato un intervento della Regione, interviene di volta in volta svestendo i panni dello Stato che accresce le sue entrate, dopo aver esteso la forma legale e quindi avendo consentito di incardinare forme di esercizio di impresa del tutto legali, smette quei panni e indossa altri panni, cioè quelli etici di chi è preoccupato delle conseguenze, della dipendenza, della cosiddetta ludopatia, di chi spende troppo, di chi si rovina, di chi addirittura si indebita avendo poco reddito perché è diventato dipendente da questi tipi di giochi. Come uscirne fuori? Perché capite che così a me sembra un doppio ruolo in commedia. E quindi una dichiarazione di questo tipo forse va chiarita meglio. Quindi voi diteci se volete lo Stato che cassa di più o lo Stato virtuoso etico che dice no. Naturalmente poi vi dovete porre il problema di cosa vuol dire se poi diventa di nuovo illegale quel tipo di gioco. Adesso vediamo lo Stato quanto incassa, per avere un'idea dell'ordine di grandezza di cui stiamo parlando. Proprio ieri è uscito il resoconto dei primi 7 mesi di entrate tributarie dello Stato, e con i primi 7 mesi del 2016 le entrate totali relative ai giochi, che includono quindi le varie imposte che gravano sull'impianto, la concessione, la gestione, l'IVA e così via, quindi le entrate erariali dirette e indirette. Ecco, nei primi 7 mesi del 2016 le entrate totali relative ai giochi sono risultate pari a 8,2 miliardi, 8.223 milioni di euro, con un aumento del 19,3% sui primi 7 mesi del 2015. Quindi sono 1.332 milioni di euro in più, un signor aumento per così dire, se pensate che il totale dell'aumento delle entrate 2016-2015 nei primi 7 mesi è del 3%, ma come vedete a quel 3% complessivo le entrate da giochi, registrando un più 19,3%, garantiscono una fortissima spinta. Allora, se pensiamo invece alle entrate riferibili agli apparecchi, ai congegni di gioco, quelli di cui stiamo parlando, quelle sono passate da 2,2 miliardi a 3,1 miliardi, con un incremento, anche qua, incredibile, perché è del 37,8% nei primi 7 mesi del 2016 rispetto al 2015. Qui tanti soldi, per capirci. Primo. Secondo, di quanti tipi di apparecchi e dove stiamo parlando? Perché, come ovvio, per avere un'idea bisogna anche capire quanto è diffusa sul territorio questa forma di esercizio del gioco legale. Allora, se vediamo i dati ufficiali del dicembre 2015, cioè la fine dell'anno scorso, avevamo in Italia 418.210 new slot, quelle di cui parla nelle tabaccherie, negli esercizi commerciali il Presidente del Consiglio, dicendo stiamo pensando di abolirle. Con queste 418.000 a fine 2015 vanno rapportate a 377.000 nel 2014, quindi sono cresciute molto significativamente di numero, e sono distribuite in 83.307 esercizi pubblici nel nostro paese. A queste slot si sommano poi 52.349 terminali di videolotteri in esercizio, e queste sono cresciute anch'esse, 1.695 in più sull'anno precedente. E queste 52.000 terminali sono installate in 4.863 sale dedicate. Alle slot, la spesa dei giocatori nel 2015 è stata di 6,6 miliardi, in crescita rispetto ai 6,4 miliardi del 2014. Gli introiti per l'erario sono stati di 3,3 miliardi nel 2015, che quest'anno crescono però significativamente, perché nella legge di stabilità del 2016, quindi quella che vale per quest'anno, sulle new slot, cioè su quelle di cui parlava il Presidente del Consiglio, l'aliquota è cresciuta fino al 17,5% rispetto a quella precedente, ed è cresciuta dal 1 gennaio del 2016. Ecco, queste cifre per farvi capire di che cosa stiamo parlando. E mentre aspettiamo che voi ci telefoniate per dire devono sparire le slot oppure no, ma attenzione a queste cifre e a che cosa queste vogliono dire, l'ospite, abbiamo il presidente di Confindustria Sistema Gioco Italia, Massimo Passamonti, che ringrazio per aver accettato il nostro invito e per capire loro che cosa pensano di questa dichiarazione del presidente del Consiglio. Buon pomeriggio, presidente. Buon pomeriggio a lei, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori. Allora, innanzitutto, i dati che abbiamo riportato tornano? Assolutamente sì, sono dati ufficiali. Sono dati ufficiali. Non possono che tornare. Esattamente. Che cosa pensate di queste parole del Presidente del Consiglio? Guardi, l'annuncio fatto dal Presidente del Consiglio è assolutamente... un annuncio importante che insomma contiene l'effettiva possibilità di cambiare e sistemare un mercato che obiettivamente negli ultimi anni... Aspetti un secondo, presidente, perché la dobbiamo richiamare, perché la qualità del collegamento del ponte radio era effettivamente bassissima, cioè si sentiva gracchiare in tutti i modi. Io intanto che richiamiamo vi informo anche che di anno in anno sia il trattamento fiscale dei concessionari e dell'esercizio a seconda del tipo di videoterminale è mutato col prelievo crescente che vi ho detto, ma sono mutate poi anche le norme, perché se ricordate nell'ultima legge di stabilità ci sono anche norme sui luoghi sensibili, sulle distanze minime a cui gli impianti dovrebbero essere, stiamo parlando gli esercizi commerciali pubblici nei quali ci sono gli impianti, rispetto per esempio alla distanza dalle scuole e così via, e c'è una grande polemica in corso perché poi effettivamente l'applicazione di questa norma, se si applicasse il distanziometro di 500 metri, si è scoperto che rischierebbero la chiusura oltre il 70% dei punti di vendita e quindi sparirebbero 3 miliardi e mezzo solo per le slot. Ma questo per ricordarvi che lo Stato c'ha qualche problema di coordinamento interno, per così dire, tra la mano destra che ha esteso il settore e ne aumenta il prelievo che grava sul settore con la mano destra, e con la mano sinistra poi fa norme invece che dicono no, noi siamo lo Stato etico che si preoccupa delle conseguenze. Allora abbiamo di nuovo con noi Passamonti, vediamo se il collegamento è migliorato. Ci diceva, questa è una dichiarazione importante che però... No, senza però, nel senso che è una dichiarazione importante che se diciamo portata avanti potrebbe effettivamente condurre ad una riforma vera del settore del gioco di cui c'è assolutamente bisogno, nel senso che lo sviluppo dell'offerta ha portato effettivamente ai numeri che lei ha ricordato prima, e sono numeri che sicuramente hanno la loro importanza per l'erario, ma sono numeri che hanno sicuramente un rilievo impattante dal punto di vista sociale nelle città per quanto riguarda diciamo così questa diffusione delle offerte di gioco e soprattutto delle slot, che ha determinato delle criticità in molte realtà urbane del nostro paese. Noi dal 2013 abbiamo avanzato proposte rivolte a considerare la necessità di una riforma organica del settore. Se questa iniziativa, se questo annuncio del Presidente del Consiglio prepara, così come tra l'altro è già in essere da un po' di tempo, le condizioni per un percorso serio di riforma, noi siamo assolutamente favorevoli, perché io sono il primo a dire, l'ho sempre detto, e anche come Confindustria abbiamo sempre sostenuto questa cosa, che il mercato del gioco legale nel nostro paese è un mercato importante, sicuramente importante, ma che sicuramente ha la necessità di essere, come dire, resettato, perché dopo una durata 15 anni in cui effettivamente si è passati attraverso tre grandi riforme che hanno legalizzato una domanda di gioco che obiettivamente c'era nel paese e c'è ancora, che prima di queste riforme era chiaramente e tranquillamente canalizzata verso offerte di gioco illegali che prendevano questa domanda di gioco, rispondevano a questa domanda di gioco. Nel 2000 la legalizzazione delle scommesse sportive, nel 2006-2009 la legalizzazione appunto delle new slot, e nel 2009-2011 la riforma dell'online, la legalizzazione dell'offerta online. Questi tre capitoli hanno portato ai numeri che lei diceva, ma obiettivamente adesso c'è la necessità di appunto fermare la macchina, fare una bella revisione, consolidare il mercato, restringere e qualificare l'offerta fino ad arrivare ad una anche considerevole riduzione sia in quantità, ma soprattutto il rafforzamento della qualità dell'offerta stessa. Allora le faccio una domanda per capire meglio qual è la posizione vostra dell'industria di settore su una graduazione che ho trovato in una relazione al Ministero della Salute, in cui si elencano in forma progressiva le diverse forme di gioco, e il criterio di questa relazione al Ministero della Salute è quello di identificare la loro aggressività in riferimento al gioco d'azzardo, cioè il maggior coefficiente stimato di rischio di ludopatia, di dipendenza. E in questa graduatoria al primo posto c'è il gratta e vinci, cioè il lotto istantaneo, al secondo il lotto superenalotto, al terzo le scommesse sportive, al quarto il poker texano, al quinto altri giochi di carte, al sesto bingo tombola, al settimo totocalcio, totogol, all'ottavo posto le new slot e le videolotteri. Però c'è chi fa notare, questo è diciamo un'osservazione che mi viene da amici che sono attivi nell'ambito delle slot, di cui ha parlato ieri il Presidente del Consiglio, che dal loro punto di vista invece questo accomunare le videolottery e le slot è sbagliato, perché alle slot, quelle gestite dai gestori negli esercizi pubblici, lì il costo massimo è di 1 euro, la vincita massima è di 100, si gioca solo con le monete, mentre le videolottery, quelle gestite dai concessionari di rete, il costo partita è di 10 euro, non di 1, la vincita può arrivare fino a 500.000 euro, ma si accettano anche le banconote da 500 euro. Ecco, questa osservazione è fondata oppure no? Guardi, intanto quella classifica, insomma, mi sembra un po' come dire, un po' affumicata, va, diciamo così, perché sì, insomma viene citato anche Totocalcio e Totogol, esatto, che credo non sia più giocato, tra l'altro. Vabbè. Comunque detto. No, non lo è, infatti, perché questa era una relazione di anni fa. Appunto. Comunque, detto questo, è evidente che le videolottery hanno delle caratteristiche diverse sia per quanto riguarda l'approccio, sia per quanto riguarda diciamo così la resa, no, economica in termini di soddisfazione barra economico, gioco, no, emotiva, no, rispetto al giocatore. È chiaro che la videolottery ha delle caratteristiche diciamo molto più impattanti nei confronti del giocatore rispetto alle new slot. E proprio per questo però il legislatore si è preoccupato di, come dire, tra virgolette, confinare le VLT solo ed esclusivamente in luoghi deputati al gioco, cioè no, le videolottery non sono nella rete diffusa. Sono appunto nelle 4.800 sale dedicate di cui parlavo all'inizio. Esattamente, comunque in sale dedicate. Allora, se il progetto va nella direzione di, come dire, realizzare un circuito nel nostro paese di sale dedicate al gioco, che può essere nei numeri anche diciamo già previsti nella finanziaria del 2016, 10.000 sale più 5.000 corner e via dicendo, questi numeri secondo me sono, come dire, accettabili e sostenibili sia dal mercato sia dal punto di vista sociale, perché appunto andrebbero sia per quanto riguarda le VLT, sia per le videolottery, sia per quanto riguarda gli altri giochi, sia per quanto riguarda la stragrande maggioranza degli slot in luoghi dedicati, senza quindi più la possibilità. No, ma comunque quello che è interessante, che rimarchiamo, è che quindi la risposta del sistema Gioco Italia di Confindustria è parliamone col Presidente del Consiglio, non è una cosa che innalza muri. Allora adesso andiamo alla sospensione per il traffico, poi sentiamo l'opinione dei nostri ascoltatori. Vi aspettiamo a Made in Malga, evento nazionale dei formaggi di montagna, Asiago 8-11 settembre. Vi presenta la versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta. Abolire le slot dagli esercizi pubblici e tenere i giochi di Stato con le videolottery invece solo nelle sale dedicate? Questa sembra la dichiarazione, è la dichiarazione del Presidente del Consiglio. Abbiamo sentito il Presidente di Sistema Gioco Italia in Confindustria che dice parliamone. Sentiamo come la pensate voi. Cominciamo con Stefano da Padova. Stefano, prego. Allora, sono molto contento di questa iniziativa di Renzi, però vorrei focalizzare sull'opportunità di essere più drastico. C'è un gioco che si chiama 10 e l'8, che estrazioni multiple frequentissime, e addirittura si possono giocare fino a 200 euro istantaneamente, cioè si danno 200 euro e la macchina ti dice se hai vinto, se hai perso, e questo è un modo di spostare semplicemente il problema. Quindi anche i tipi di gioco, dice Stefano, hanno la loro rilevanza, e come negarlo? Sentiamo Eugenio da Parma. Eugenio, prego. Buonasera. No, buonasera. Io vorrei sapere comunque chi e cosa rappresenta il Sistema Gioco Italia, visto che rappresenta comunque i concessionari, che sono quelli che ha questa... Quindi riforma. Lei dice quelli delle videolottery. Sì, quindi io non capisco perché ci sono 4.900 mini casinò in cui si può tranquillamente riciclare soldi e lo Stato italiano non ha ancora fatto niente, sono luoghi... Ah, lei le accusa proprio di riciclaggio? Sì. Come dice la UIF, sono 3 anni che la UIF, sa cos'è la UIF, no? Sì, sì. Il sistema bancario, esatto. Che dice, guardate che si può riciclare, si può, non si può. E nessuno ha mai fatto niente. Vanno a colpire le macchinette, che sono comunque tante, ed è giusto anche ridurle. Vogliono ghettizzare comunque solo in questi locali bui, che non si sa chi ci entra, che non si sa, cioè si sa perché vengono controllati, ma... C'è un giocatore deve andarci apposta e chi ci va. Quindi apposta, lei parla a difesa delle slot contro le videolottery, capito bene? Sì. Ah, aspetti, allora, il costo orario che costa le slot, cioè la gente arriva a perdere migliaia di euro in un... No, ma ho detto prima quali sono le poste massime, appunto per quello. Infatti io la domanda l'avevo già fatta, però sentiamo Massimo Passamonti come risponde a questa accusa, a questa considerazione di Eugenio da Parma, che dice no, vabbè, quelli sono i concessionari, è ovvio che non vengono colpiti e soprattutto... Queste sale dedicate sono luoghi di possibile riciclaggio, che dice Passamonte? Dico che sono due stupidaggini in una, perché vuol dire che i concessionari siano seriamente danneggiati dal punto di vista del solo calcolo economico di una riduzione significativa del numero delle slot, perché le slot non è che sono del noleggiatore, poi sono del noleggiatore sì, ma fanno riferimento a concessionari che ne garantiscono il collegamento in rete, quindi da questo punto di vista è una grande stupidaggine. E c'è nel corso di questi anni i concessionari sono stati duramente colpiti dal punto di vista erariale, anche per quanto riguarda prelievi diretti. No, questo è vero, l'ho ricordato di legge in legge di stabilità. Poi, le sorprese sono sempre state. Ha detto bene lei che l'intervento era chiaramente a favore delle slot contro le VLT, le videolotte. E sul riciclaggio che si può fare? Sul riciclaggio è un'ennesima stupidaggine, perché è chiaramente lì c'è un ente che è appunto l'UIF, che con. Segue e monitora costantemente tutto quello che avviene all'interno delle sale. Noi siamo costantemente monitorati. Però, da questo punto però di vista... come si vede, c'è una dialettica all'interno del sistema. No, c'è una dialettica all'interno del sistema. Quindi il governo dovrà confrontarsi con tutte le rappresentanze. Comunque, sentiamo ancora Pierandrea da Ferrara. Prego, Pierandrea. Sì, buonasera, grazie dell'opportunità. Guardi, io sono fondamentalmente antiproibizionista in qualunque materia e su qualunque situazione e questione. Ahimè, però... anch'io, ma tento di non farlo pesare perché so che sei minoritaria la mia posizione. Per la mia idea è che un maggiorenne dovrebbe essere libero, però questa è la mia idea. Ed è anche la mia, anche perché sono cresciuto con il picchetto, con le sale clandestine, con le scommesse illegali nel calcio e sappiamo i danni che questo ha fatto. Esatto. Sia allo sport sia alla società. Ma detto questo? Ma detto questo, non è possibile che questo tipo di attività divengano un modello sociale eticamente accettato e promosso. E questo intendo dire che non può il ragazzino che entra al bar, che va in tabaccheria, vedere il padre di famiglia, il nonno, la zia e la signora che si... Quindi lei è per le sale dedicate e non gli esercizi pubblici, traduco sinteticamente bene? Sì, assolutamente, okay. Quasi, adesso voglio fare un parallelo, ci sono anche nel discorso della droga, non si tratta di ipocrisia, si tratta di concedere al maggiorenne, come dice lei, la libertà di vivere la propria vita, ma senza che divenga un modello sociale pubblico. Va bene, Pierandrea quindi introduce questa sottile ma importante distinguo. Sentiamo Pietro da Ascoli. Pietro. Buonasera, salve, grazie per avermi concesso la possibilità di intervenire. La mia è una proposta che forse sembrerà ingenua, ma ritengo sia di compromesso per evitare quello che è, secondo me è un fenomeno di proibizionismo e che aborro personalmente. Secondo me dovremmo dotare sia i giochi online che le slot di un vincolo all'accesso, cioè permettere il gioco solo attraverso l'attesta sanitaria o di un altro documento di riconoscimento. Digitale, che attesti digitale. In quel caso che cosa però? Il track record del giocatore o che cos'altro? L'identità del giocatore e quindi limitare giornalmente o mensilmente quello che è l'importo giocato. Ah, quindi lei è per il controllo con il track record personale. Guardi che questo significa un'invasione fortissima nel costume personale. Questo significa schedare la gente? Come viene fatto per le sigarette, però avrebbe sicuramente degli effetti. No, per le sigarette non, non viene fatto. Vabbè, sì, cioè, è necessario inserire la tessera sanitaria. Ah, inserire la tessera per l'età, ma lei in questo sta proponendo anche un track record delle somme monitorate individualmente. Beh, io ripeto, posso capire che c'è chi lo pensa, che di fronte alla ludopatia è meglio, però è una forma di controllo sociale. Chi la pensa come me dice: oh, mio Dio, in teoria gli esercenti devono controllare che a delle slot solo i maggiorenni giochino. Il nostro ascoltatore precedente dice: sì, ma resta il problema di chi è minorenne, va lì e vede, e questo è un altro problema. Comunque, come vedete, sono tanti gli aspetti di questa proposta, ne vedremo lo sviluppo. Avete sentito anche più voci di chi rappresenta diversi segmenti delle attività di impresa collegate a questo. Certo, sono tanti soldi, vedremo se lo Stato sarà etico o sarà invece quello che incassa, perché delle due l'una, non può fare molto bene entrambe le cose. Grazie per l'ascolto, continuate sulla 24, appuntamento domani alle 8:20 con Attenti a Noi Due.